Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il tema della giustizia, del suo funzionamento, della politicizzazione della magistratura è un tema che domina il dibattito politico italiano da ormai più di 20 anni, e su questo tema abbiamo sentito spesso tante critiche provenienti da soprattutto da un certo ambiente politico che mettono in luce le distorsioni alle quali appunto hanno dato vita i fenomeni quali la politicizzazione della magistratura. Ma queste critiche possono arrivare anche da sinistra, e adesso ve ne do una testimonianza con il libro di Piero Toni, che è stato magistrato, tra l'altro è stato procuratore capo di Prato, iscritto e attivo nella corrente di Magistratura Democratica, la corrente di sinistra dei magistrati, che ha deciso di abbandonare la sua professione con 2 anni di anticipo per poter denunciare con maggiore libertà quelle che considera le condizioni fallimentari della giustizia nel nostro paese. E il frutto di questa riflessione lo troviamo nel libro curato da Claudio Cerasa, Io non posso tacere, confessioni di un giudice di sinistra, pubblicato da Einaudi, 128 pagine, 16 euro. Accennavo all'appartenenza di Toni alla corrente di Magistratura Democratica. Proprio le correnti nella magistratura sono, secondo l'autore, una delle cause del disastro italiano della giustizia. Un tempo le correnti erano utili, scrive egli stesso, poi sono degenerate e ora fanno più danno della grandine, così scrive Toni. Come sentite, non le manda dire e non trascura mai Toni di ricordare le posizioni politico-ideologiche dalle quali egli parte per questa amara denuncia. A un certo punto, per esempio, introduce una figura insolita, un neologismo fortunato secondo me, quella del magistrato intrufolino, il magistrato cioè che si appassiona soprattutto a temi mediatizzabili, così scrive, che scrive provvedimenti simili a reportage, che è specializzato nel dare le soffiate giuste alle persone giuste, avendo la quasi assoluta certezza che non sarà mai punito. In sostanza, conclude, l'esatto contrario di quello che dovrebbe essere, di quello che dovremmo essere, è un uomo di potere. Insomma, tante storture delle quali adesso parliamo con l'autore. Buonasera a Piero Toni. Buonasera. Piero Toni, ho accennato poco fa al tema delle correnti, che secondo lei rappresenta una delle patologie più gravi della giustizia italiana. Come è scoppiato questo mal di correnti nella magistratura e nella giustizia italiana? Diciamo che cerco di spiegarlo nel mio piccolo pamphlet, erano centri di aggregazione culturale assolutamente ineludibili, cioè ci si univa secondo il modo di pensare e il modo di pensare soprattutto in relazione all'approccio da dare alla nostra attività. E con gli anni, secondo me, questi centri di aggregazione culturale sono diventati dei centri di potere. E dei centri di potere, e come tutti i centri di potere in qualche modo difficilmente controllati e controllabili, sempre secondo me sono diventati, e lo spiego nel libro, deleteri, soprattutto in due ruoli che sono legati al CSM, quello della scelta dei dirigenti migliori da mettere negli uffici che sono rimasti senza dirigente, è quello della mancanza di una reazione disciplinare agli illeciti disciplinari che vengono fatti dappertutto e quindi anche nella categoria dei magistrati vengono commessi. E questo perché? Perché invece di decidere nel merito e quindi colpire l'illecito disciplinario o scegliere il magistrato con più esperienza specifica ed adeguata per quell'ufficio, le scelte vengono fatte sia nella scelta sia nella censura, vengono fatte secondo il criterio di appartenenza, per cui il merito salta. Ecco, un altro tema che lei affronta nelle prime pagine del suo libro e che anima molto il dibattito su queste questioni è il tema della supplenza della magistratura, che ha fatto saltare in pratica il principio della separazione tra i poteri, e in questo lei sottolinea ci sono anche responsabilità della stessa politica. Secondo lei questa tendenza si può invertire? Io credo che la tendenza si possa invertire, fermo restando che il criterio di Montesquieu sicuramente dopo tanto tempo è ormai superato e potrebbe essere anche ripensato in parte, e io credo di poter indicare, e lo indico nel testo che la supplenza sta a significare dilettantismo in luogo di professionalità e di specializzazione, perché è vero, la supplenza laddove ci sono dei vuoti di quelli che dovrebbero essere i titolari di una funzione, e da una parte la supplenza fatta dalla magistratura è trainante, ma dall'altra parte serve da alibi, cioè porto una serie di esempi per essere meglio compreso, ma per esempio nella mia ultima procura, quella di Prato, dove sono stato 9 anni e dove a fronte di migliaia di imprese di varie etnie, quindi difficilmente controllabili, con posti di lavoro assolutamente di gravissimo pericolo per i lavoratori, c'erano 2 ispettori dell'ufficio del lavoro, e che succedeva? Ho dovuto industriarmi formulando con la regione un protocollo, e quindi i 2 sono diventati 52 ed ora anche più di ispettori, ritengo, ma l'ho fatto perché sentivo il bisogno e ho trovato una sponda adeguata nella regione, ma l'ho fatto senza, con un'attività che era assolutamente estranea alla mia professionalità. Io non poco dovrei sapere di protocolli, poco dovrei sapere di approcci con enti regionali e così via. Altro esempio di supplenza che sta a significare cosa vuol dire dilettantismo in luogo di professionalità, e va bene, e qui in questo caso parliamo dell'omicidio stradale. È un fenomeno che è apparso negli ultimi decenni, sia per la densità della circolazione, sia per il fatto che c'era molta meno gente pronta a circolare con 4 millimetri di alcol nel sangue, va bene, è un fenomeno in questo momento sociale. Il reato però viene sempre considerato e punito con l'omicidio colposo di 150 anni fa. La magistratura anche qui si è industriata, ha tentato di industriarsi praticamente cercando di quantomeno di poter arrestare una persona, e lo ha fatto interpretando in maniera molto molto molto molto evolutiva, e sottolineo molto molto molto, per tanto è vero che poi non ha retto in Cassazione, utilizzando il concetto di dolo eventuale, cioè io ubriaco fradicio con 4,00 di alcol nel sangue mi sono messo alla guida indifferente all'incolumità altrui, quindi secondo giurisprudenza costantissima accetto il rischio di ammazzare qualcuno. È una interpretazione giurisprudenziale, è supplenza perché non esiste la normativa, e la Cassazione che deve far applicare rigorosamente la normativa credo che abbia bloccato dappertutto questa interpretazione più o meno evolutiva, e quindi non c'è, e quindi una persona che ubriaca fradicia, che lo fa una volta e poi lo fa la seconda e poi lo fa la terza e ammazza 4 persone per essere ancora più accattivanti nel discorso, è successo anche con bambini, e niente, praticamente non viene punita adeguatamente. Questa è supplenza. Veniamo al tema della sinistra. Lei si definisce fin dal sottotitolo un giudice di sinistra. Ecco, come spiega l'evoluzione o l'involuzione che c'è stata nella sinistra sui temi della giustizia, in particolare sui rapporti con la magistratura? Come ha fatto la sinistra a diventare, da garantista che era 20-30 anni fa, a piuttosto incline a essere forcaiola? Ma io non so, è un tema, sono molto cauto nel dire che cosa è destra e che cosa è sinistra, e io posso dire che sono stato iscritto per decenni a Magistratura Democratica, che è la corrente più di sinistra, e posso dire che vengo normalmente considerato una persona di sinistra, credo per la particolare sensibilità ai problemi delle fasce deboli, ai problemi degli interessi diffusi, ambientali e così via. Ma poi, al di là di questo, dire cosa vuol dire destra o sinistra. È certo che il garantismo di determinati settori della magistratura si potrebbe dire che in qualche modo si è evoluto ed è cambiato man mano che mutavano gli utenti della giustizia. Utenti fra virgolette, perché non trovo un termine più adeguato, voglio dire che una certa, per esempio, magistratura democratica sicuramente era molto più garantista quando la maggior parte degli utenti erano gli emarginati, che erano spesso gli unici utenti della giustizia, e forse ha sentito meno il bisogno di essere garantista quando non ha avuto, si è ritrovata con utenti e non più gli emarginati dei dormitori delle grandi città, ma cose un po' più sensibilmente presenti. Grazie a Piero Toni, autore di Io non posso tacere. Buona serata. Buona serata, grazie. Vi segnalo adesso i libri di altri tre magistrati. Il primo è Gian Domenico Lepore, che è stato procuratore capo a Napoli e parla delle esperienze che ha avuto, delle condizioni della giustizia, nel libro scritto con Nico Pirozzi, Chiamatela pure giustizia se vi pare, edizioni 100 autori, 174 pagine, 15 euro. Qui Lepore denuncia senza pietà i ritardi e l'arretratezza del sistema, richiamandosi anche alle dichiarazioni espresse da Renzi sulle riforme necessarie per cambiare il sistema, e rievoca anche molte inchieste napoletane che hanno fatto discutere, per esempio quella su Enzo Tortora o l'altra su Alfredo Romeo, che vennero entrambi assolti. Poi parla di corruzione, Camorra, sottolineando i rischi di una cattiva legislazione. L'altro libro è di Guido Brambilla, che attualmente è giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il libro si intitola Itinerari della giustizia, appunti per un'antropologia giuridica, è pubblicato da Guerini Associati. 144 pagine, 14,50 euro. Qui troviamo delle riflessioni di carattere anche filosofiche sul tema della giustizia, che Brambilla affronta soprattutto alla luce degli insegnamenti di Don Giussani e di Benedetto XVI e di altri maestri come Dostoevsky, Manzoni, Milos, Simenon, Lewis e molti altri ancora. Un altro magistrato noto al largo pubblico è Nicola Gratteri, autore di importanti inchieste sull''Ndrangheta, che con Antonio Nicaso, che è un esperto di questo settore, firma Oro Bianco, storie di uomini, traffici e denaro dall'impero della cocaina. È pubblicato da Mondadori, 264 pagine, 18 euro. Questo è un libro appunto sulla coca, diventato, come scrivono gli autori, sballo di massa e soprattutto un mercato che non conosce crisi, alimentato dai traffici dell''Ndrangheta. Si parla addirittura di flussi finanziari di circa 44 miliardi di euro in tutto il mondo. E qui troviamo un'indagine su questo mercato, partendo da uno dei grandi centri produttori, la Colombia, per poi toccare gli altri paesi vari nel mondo, e arrivare infine all'Italia, in particolare a Napoli, dove, scrivono gli autori, la droga è una miniera d'oro, a Milano, detta Coca City, a Roma Capitale, dove la droga è potere. E in questa situazione ovviamente finiscono per inquinare proprio i soldi della cocaina, scrivono gli autori, che questi soldi inquinano l'economia legale ed entrano nei circuiti apparentemente gestiti da persone insospettabili, cosiddetti vicini di mafia, come li ha efficacemente definiti il giornalista Roberto Galullo, che appartiene a questo gruppo editoriale. Un ex magistrato romanziere invece, Gianni Simoni, che adesso si dedica ai libri noir e che ha dato vita al personaggio del commissario Lucchesi, che ritroviamo per la quinta volta nel libro Omicidio senza colpe, pubblicato da Tea, 242 pagine, 13 euro. Siamo di nuovo a Milano, in un periodo simile a quello nel quale ci troviamo adesso, cioè gli inizi dell'estate, e qui il commissario indaga sull'apparente suicidio di un anziano signore, che sorprenderà il lettore negli sviluppi dell'indagine, basata su due opposte solitudini, quella della vecchia vittima, che appunto scopriremo non si è suicidata, e quella di un bambino apparentemente mendicante. A questo punto ci interrompiamo un momento, ci sentiamo fra pochi minuti. Lasciali fare che stanno volando. Vuoi partecipare al nuovo tour di Enrico Ruggeri? Ascolta Radio 24 e potrai assistere al concerto nella tua città. Sarà domani oppure mai. Pezzi di Vita Tour, dal 18 aprile, nelle più importanti città italiane. Info su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di libri, partendo da un grande, grandissimo intellettuale del Novecento, George Steiner, che con Garzanti pubblica una conversazione con Lord Adler, che si intitola La passione per l'assoluto, è tradotto da Giuseppe Allegri, 154 pagine, 17 euro. In questa conversazione si parla anche di libri e delle passioni, per esempio la Bibbia, o delle idiosincrasie, per esempio Freud, la psicoanalisi di Steiner. Si comincia a parlare della vita e della formazione, tradizione e poi dell'ebraismo, di cui Steiner dà un'interpretazione molto particolare. Per Steiner essere ebrei significa essere gettati nella vita, essere ospiti della vita, e spiega: chi è buttato nella vita, a mio avviso, ha un dovere nei confronti della stessa, l'obbligo di comportarsi da ospite. Che cosa deve fare il convitato? Vivere tra gli uomini ovunque gli si trovi. Da buon invitato, ospite meritevole, lascia l'alloggio dove è stato accolto un po' più pulito, un po' più bello, un po' più interessante di come l'ha trovato, e se deve andarsene, fa i bagagli e se ne va. Steiner denuncia l'antisemitismo crescente che vede appunto montare in tutta Europa, e poi parla a lungo di libri per i quali naturalmente l'autore ha una particolare predilezione. L'intervistatrice sottolinea infatti, in una domanda che apre questa parte del libro, sottolinea infatti il valore del libro, l'importanza della continuità del libro nella cultura, l'essenzialità del libro per la nostra esistenza, che ci permette di risalire continuamente alle origini. E Steiner così spiega la sua passione per i libri. Mi sembra di capire che tra gli uomini lei distingue due tipi di persone: quelli che leggono con una matita in mano e quelli che non lo fanno. È così. E in aggiunta ribadisco, l'ebreo sarebbe quasi da definire come colui che legge sempre matita alla mano, perché convinto di poter scrivere un libro migliore di quello che sta leggendo. È una delle grandi presunzioni culturali del mio tragico piccolo popolo. Bisogna prender nota, sottolineare, sfidare il testo, scrivere ai margini. Che idiozie, belle idee. Non c'è nulla di più affascinante delle note a margine di grandi scrittori. È un dialogo vivo. Erasmo ha affermato: chi non ha libri strappati non li ha letti. È un po' estremo, ma contiene una grande verità. Possedere un'opera completa è come avere un ospite gradito in casa a cui si perdonano persino alcune debolezze, talvolta anche apprezzandole. E diversi anni dopo si cerca, per snobismo e arroganza baronale, di nascondere le tracce di cattive letture e di false interpretazioni. Che sciocchezze! Scoprire un libro può cambiare la vita. Ho raccontato spesso questo aneddoto. Sono alla stazione di Francoforte per prendere una coincidenza quando, questa è la Germania, i chioschi vendevano diversi bei libri, vedo un volume. Non conoscevo il nome dell'autore. Celan. Mi incuriosisce. Apro il libro nel chiosco e mi imbatto in questo incipit: nei fiumi, a nord del futuro. C'è mancato poco che non perdessi il treno. Da allora la mia vita è cambiata. Ho capito che là dentro c'era un'immensità che avrebbe fatto parte della mia esistenza. L'esperienza del libro è la più pericolosa e avvincente che ci sia. Insomma, il libro va usato. Ma voi i libri li sottolineate? Siete d'accordo con Steiner che i libri tanto più sono utili quanto più sono vissuti, utilizzati e magari anche stropicciati? Se volete rispondere a questa domanda, dateci il vostro parere rispondendo a unlibro@radio24.it. Raccoglieremo i vostri pareri e li comunicheremo nelle prossime puntate. Andrew Taylor, che è un giornalista inglese, si lancia invece in un'impresa rischiosa, quella di selezionare i 50 libri che hanno cambiato il mondo. Questo è il titolo del libro, pubblicato ancora da Garzanti, 286 pagine, 14,90 €. E il libro è tradotto da Roberto Merlini. Naturalmente, spiega Taylor, la discrezionalità in questa scelta è massima. E allora Taylor sceglie i libri che, ognuno a modo suo, hanno cambiato la mia vita, scrive, ma anche quelli che secondo me hanno modificato, e lo posso dimostrare, il mondo, in un modo o nell'altro, e la vita di milioni di persone. Non necessariamente in meglio, ci sono dei libri che hanno avuto delle conseguenze terrificanti, rammenta egli stesso, per esempio i protocolli dei Savi di Sion, i pensieri di Mao, che peraltro troviamo in questo elenco. Parte dunque dall'Iliade per arrivare a Harry Potter. Harry Potter, anche questo, ha cambiato il mondo perché ha letteralmente dato nuova vita al settore della narrativa per ragazzi, ci spiega l'autore. I suoi libri hanno riavvicinato i giovanissimi alla lettura, li hanno parzialmente allontanati dalla televisione, dai computer e dai videogame, e hanno attratto in particolare i maschi, da sempre i meno inclini a questo passatempo. Tra i libri, pochi gli italiani, tra i classici c'è Orazio, poi Machiavelli, ma non Dante, Galilei e Primo Levi. Ci sono libri scientifici, per esempio quelli di, per esempio c'è Galileo assieme a Darwin, ci sono libri di economia, La ricchezza delle nazioni di Smith o La teoria generale di Keynes, libri libri politici come quelli di Mill e di Marx, e naturalmente, come ricordavo prima, i libri cattivi come Mao o i protocolli dei Savi di Sion. Ma sentiamo come l'autore presenta se questo è un uomo di Primo Levi. Se questo è un uomo, il resoconto delle esperienze vissute da Primo Levi in un campo di concentramento si occupa di tematiche che vanno ben oltre quanto dovrebbe essere il soggetto principale. Il libro riguarda non solo i campi di concentramento nazisti, ma anche gli effetti delle più inimmaginabili atrocità sferrate all'anima delle vittime e alla loro capacità di sopravvivenza. Un'opera che ha cambiato per sempre la nostra concezione della sofferenza e ha accresciuto la consapevolezza del potenziale, pressoché illimitato, di cui dispone il genere umano, tanto nel bene quanto nel male. Infine un romanzo, anche questo pubblicato da Gazzanti, Tutta colpa di un libro, di Shelley King, tradotto da Roberta Scarabelli. 244 pagine, 16 ore e 40, l'autrice americana, e questo libro ha avuto un enorme successo nel suo paese per poi essere venduto in tantissime altre nazioni. E si tratta della storia di una ragazza della Silicon Valley, temporaneamente disoccupata, anzi, come si dice meno brutalmente, involontariamente separata dall'organico della sua azienda nel 2009, che trova nella passione per i libri, alimentata e coltivata in una vecchia libreria, consolazione. La vicenda parte da una copia consunta dell'amante di Lady Chatterley che le cambierà letteralmente la vita per quello che troverà dentro quel libro, non soltanto nel testo ma proprio tra le pagine del volume, e su questo si baserà la sua strategia per salvare la vecchia libreria dove ha trascorso le giornate da disoccupata, minacciata dalla filiale di una grande catena libraria. I libri possono avere anche un insolito effetto, come dimostrano Marianna Albini e Leonardo Merlini nel libro Più in forma con Kafka, pubblicato da Chiare Lettere, 118 pagine, 8 euro. Nicola Lagioia, nella postfazione, spiega a che cosa serve la letteratura, che rappresenta un'oasi di gratuità, o dovrebbe rappresentare un'oasi di gratuità, visto che molto spesso, aggiunge, gli scrittori sono tirati per la giacchetta perché essi svolgano attraverso i libri un compito alieno a quella che dovrebbe essere la loro vocazione. Per esempio vengono richiesti, scrive Lagioia, di sconfiggere la mafia, rovesciare il governo, denunciare la corruzione, ma anche salvare un matrimonio, guarire la depressione, contribuire ad aumentare il PIL. No, la letteratura va presa per quella che è, e l'esercizio di Albini e Merlini, scrive Lagioia, va presa in particolare come una provocazione, uno sberleffo, un paradosso da leggere tutto tra le righe. Che cosa c'entra Kafka con la forma fisica? Spiega sempre Lagioia che i personaggi di Kafka, tutto l'agghiacciante complesso bandistico kafkiano, il loro creatore per primo, sono tra le più clamorose testimonianze mai apparse sulla terra dell'indistruttibilità dell'uomo. E infatti, spiegano i due autori, in un paragrafo che si intitola appunto I libri agiscono su di noi, leggere Kafka e seguirne i consigli fa bene a tante cose, all'aspetto esteriore, a sapere incalzare i propri superiori con la costanza dell'agrimensore K, a stare in forma, eccetera, eccetera. Tante altre prescrizioni sorprendenti che ci fanno scoprire curiosi e reconditi effetti positivi della lettura. Visto che siamo sui classici, passiamo da Kafka a Leopardi. Vi segnalo una biografia di una grande scrittrice inglese molto legata all'Italia, dove visse e morì, Iris Origo. La biografia si intitola semplicemente Leopardi, pubblicato da Castelvecchi, 282 pagine, 19,50 euro, e tradotto da Paola Oietti. Questo è un libro del 1935 che venne tradotto in italiano per iniziativa di Indro Montanelli negli anni 60. E qui l'autrice cerca, attraverso la biografia di Leopardi, di ricostruire l'ambiente, il mondo interiore del poeta, sempre in cerca di superare ciò che si vede con gli occhi, scrive Laurigo, e per cogliere il vero essere da scoprire magari oltre una siepe. Allora si parte da Recanati, dove conosciamo la gens Leoparda, la famiglia di Leopardi, e poi tutto il seguito della sua vita. Particolarmente illuminanti in questo libro sono le pagine dedicate allo Zibaldone, una delle opere forse più complesse ma più sorprendenti e affascinanti di Leopardi, e l'autrice, a proposito di queste pagine, mette in luce quanto esse siano importanti per scavare nella personalità di Leopardi e soprattutto nelle sue convinzioni spirituali. Molte pagine dello Zibaldone, scrive, riflettono la sua angosciosa esperienza di quanto sia difficile e duro dubitare. Non è segno di molto talento, questo è Leopardi che parla, il soler sempre subito determinarsi a non credere, come anche a non fare. Anzi, perciò appunto, è indizio di piccolo spirito, il non credere è una determinazione. E gli uomini veramente sapienti e profondi ed esperti sanno quante cose possono essere, quanto sia difficile il negare. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo di Giusy Marchetta, che è un insegnante, Lettori si cresce, pubblicato da Einaudi, 170 pagine, 14 euro. Questo è un libro anche per ragazzi, ma soprattutto per chi vuole appassionarsi alla lettura, partendo dalla dolorosa constatazione che a Polito, uno dei suoi allievi, leggere non piace proprio. Perché tu non leggi, Polito, mai, nei libri, nei fumetti, nei giornali, né riviste, così dice la docente. Ti ho visto piegato sul banco, incapace di arrivare in fondo alla pagina senza boccheggiare, controllare l'effettiva presenza di pagine successive, infliggere a me, la tua insegnante, lamentosi tentativi di opporre resistenza. Da questa situazione si parte per cercare di superare il dramma senza indulgere a quella retorica che normalmente si associa a questi sforzi pur meritevoli per indurre i giovani alla lettura. E l'autrice riconosce anche che esiste il diritto di non leggere, ma non esita a esprimere un imperativo: vogliamo che leggiate, quindi dovete leggere. Con urgenza. È un ordine, sì, per il bene di tutti, tu e i tuoi coetanei dovete imparare a leggere. Ultimi arrivi. Oggi si è concluso il Giro d'Italia e quindi vi segnalo un giro intorno a me, 21 tappe indimenticabili della Corsa Rosa, scritto da Ennio Doris con Pier Augusto Stage, pubblicato da Spelling e Kupfer, 184 pagine, 16,90 €. Un banchiere e un giornalista parlano della grande passione del primo per questo storico appuntamento sportivo, e questa è una lunga intervista sulla sua carriera di tifoso ciclistico. Poi vi segnalo, sempre in tema, di Francesco Moser, Ho osato vincere, è scritto con Davide Mosca, è pubblicato da Mondadori, 222 pagine, 19 euro, e qua il campione racconta la propria strepitosa carriera sportiva. E poi vi segnalo il libro di Jack Andraka, scritto con Matthew Lysak. L'autore è un giovanissimo ragazzo americano, classe 1997, un genio della ricerca scientifica, che racconta un'avventura straordinaria, ossia la scoperta da parte sua di un sistema rivoluzionario per diagnosticare in tempo il tumore al pancreas. Il libro si intitola Basta un ragazzo, tradotto da Giuseppe Maugeri, 220 pagine, 15 euro, ed è pubblicato da Garzanti. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Peter Bescapè e regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, il libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.